Radio Archimede, la nuova radio di Settimo Torinese che trasmette da Archimede e arriva in ogni luogo su www.radioarchimede.it. Bentornati in onda su Sono Solo Nuvolette, io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter. Dovrei inventarmi una frase di partenza perché sono questo bentornati in onda è di una banalità sconcertante, ma sono alle prime armi, signori. Fino a 6 mesi fa facevo l'editore, poi cosa porta a far la vita non lo sappiamo neanche noi. E dopo questa apertura pseudo-filosofica in cui sembro un totale cretino, ma pazienza, cerchiamo di riscattarci con l'ospite di oggi, che è una persona con cui condivido innanzitutto l'età anagrafica, perché abbiamo fatto l'università insieme. E i percorsi sono stati paralleli, continuavamo a trovarci giacca e biglietto da visita muniti al Salone del Libro in certe situazioni, e adesso poi mi sono ritrovato a fare questa trasmissione, ho detto ma perché non vieni come ospite? Lo presento bene, Gianni Lacorte, scrittore e editore. Ciao Fulvio, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Archimede, grazie mille per l'invito. Ok, è un piacere dopo anni di incontri fortuiti alle fiere avere la possibilità di chiacchierare un po' con te di questo mondo dell'editoria, di questo mondo che noi trentenni dobbiamo prendere un po' a picconate, però non... Se ci piacessero le cose facili probabilmente non lavoreremmo in questo ambiente, immagino. No, assolutamente. Esatto. Dovendo partire un po' da zero, Gianni, tu sei sia scrittore che editore, ma volendo partire dal discorso editoriale, c'è un qualcosa da cui c'è un evento che considera la scintilla da cui sei partito, un'idea? Ma c'è sempre stata la voglia, cioè io sono cresciuto a pane e libri fin da piccolino, racconto sempre questo aneddoto per cui il mio primo romanzo che lessi quando avevo 8 anni era La storia infinita di Michael Ende, e quindi da lì ho fatto un po' mia la missione, quella di continuare a leggere per sconfiggere il nulla, e così, okay. Così sono cresciuto. Tra l'altro hai letto prima il libro che vedere il film? No, credo no. Che avrò visto prima il film, perché okay. Insomma, no, per noi è un po' difficile. Eravamo a piccolini noi, i film lo trasmettevano 27 volte al giorno. Esatto, sono parte della nostra infanzia quei film lì, infatti. Esatto. Mi stupiva. E poi, quindi in realtà poi ho conosciuto appunto come in veste di scrittore, a 20 anni pubblicai il mio primo romanzo con una piccola casa editrice di Roma e cominciai a conoscere il mondo editoriale, e quindi quando a un certo punto dovevo decidere cosa fare nella mia vita, ho deciso come sempre di inseguire i sogni e ho cercato di fondare la mia casa editrice, perché era quello che alla fine volevo fare con tutto me stesso. Ok, e qual è il primo ostacolo? Perché poi alla fine quando c'è un sogno c'è anche un ostacolo. Qual è stata la parte prima? Quelli economici, perché quando parti da zero devi comunque fare inquadrare tutto quanto. No, la cosa è sempre stato quello, cioè nel senso, dall'inizio la cosa bella è che in realtà prima di partire ho fatto un anno di pre-startup, quindi un anno in cui perché poi io parlo con questo plurale my status, ma in realtà all'inizio ero solo io che con tutte le mie idee in testa, e ho dovuto fare davvero un anno di pre-startup in cui dovevo far combaciare tutto quanto, quindi dovevi trovare gli scrittori ma ancora non avevi la distribuzione, e quindi gli scrittori dicevano sì, ok, ma chi ti distribuisce? Ma i distributori dicevano sì, ok, ma quali autori hai? Quindi a volte all'inizio era proprio un cane che si mordeva la coda. Sì. Però è stata un'avventura fantastica, abbiamo cominciato, e la cosa bella è che fin da subito i lettori, le librerie, tutti i giornalisti che leggevano i nostri libri hanno cominciato a capire che il progetto era veramente serio, e quindi c'era una buona base di partenza su cui costruire delle cose. Quindi in realtà ogni singolo mattone di Lacorte Editore puoi vantare di averlo messo su tu. Sì, anche la calce e tutto quanto. Esatto. Quindi sì, sono contentissimo perché sono partito davvero da zero, anzi a scavare le fondamenta, e da lì vedo che mese dopo mese, anno dopo anno, le cose stanno diventando sempre più belle, sempre più grandi. C'è tanto lavoro da fare, si lavora 24 ore al giorno, ma l'entusiasmo degli scrittori, dei lettori e delle persone che collaborano con noi è sempre una cosa bellissima da riscontrare. Okay. Tra l'altro siamo anche in webcam, se qualcuno stesse ascoltando, ma non io saluto con la manina, ma fosse anche davanti al computer, volesse anche vederci, so che immagino ci sia qualcuno di più bello da vedere, soprattutto fossero donne. Noi siamo uomini barbuti, io oggi non barbuto per puro caso, ma ho due espressioni, una con barba, l'altra senza barba, quindi come qualcuno potrebbe essersi accorto nel selfie che Gianni, che è molto più social di me, ha voluto fare prima della trasmissione, oggi non ho la barba, qualche volta ritornerà. Perché faccio questi discorsi qua adesso? Vabbè, usciamo dalla barba. Puro nonsense. Io stavo parlando di... Avevo fatto un discorso... ero partito bene, poi devo sbraccare totalmente. Questo, vabbè, i due neuroni. Gianni, tu arrivi oggi dalla Fiera del Libro di Bologna direttamente, giusto? Sì, assolutamente. Ho fatto 3 ore di viaggio in macchina e sono arrivato qua. Sì, sono stato io tutto il giorno alla Fiera di Bologna. Confesso, era il primo anno che c'ero e ne sono rimasto davvero meravigliato. Molto diverso da tutte le fiere che facciamo di solito noi in quanto espositori. Ieri ero come visitatore, come professionista, sono andato appunto in giro per gli altri stand. Di solito abbiamo i nostri stand ed era qualcosa di completamente diverso. Ovviamente alla fiera, al Salone del Libro di Torino, piuttosto che a Lucca Comics o in tutte le altre 1000 fiere che durante l'anno facciamo, c'è la bellezza di incontrare il pubblico. Qua invece la Fiera di Bologna di questi giorni, che ci sarà fino a giovedì, è davvero riservata ai soli professionali e quindi era bello vedere tutto quello che c'era, che c'è dietro le quinte. Esatto. E quindi conoscere tutti gli addetti ai lavori è stato molto molto interessante. La Fiera del Libro per ragazzi di Bologna è qualcosa di diverso da ciò che ci aspettiamo di una fiera B2B, come dicono quelli che hanno studiato, business to business, quindi principalmente rivolta agli addetti ai lavori. Quindi per l'addetto ai lavori è senz'altro una manna, perché probabilmente riesce a incontrare tutta una serie di editori, interlocutori, autori che normalmente anche in una situazione come il Salone del Libro di Torino magari sono impegnati più con il pubblico. Sì, ma ad esempio io stesso durante il Salone del Libro di Torino abbiamo spesso davvero poco tempo da riservare a questi aspetti, anche se sarebbero importantissimi, proprio perché il nucleo del Salone del Libro è l'incontro con il lettore. Esatto. Voglio che i lettori ci conoscano, ci vengano a trovare, di anno in anno sono sempre di più, incontrino i nostri autori, ci sia le coccole vanno riservate agli lettori. Esatto. È una fiera come quella di Bologna invece no, la cosa bella è proprio questa, dover progettare, costruire, mettere altri mattoni, andare a conoscere persone, provare a scoprire i libri che pubblicheremo il prossimo anno. Questo è stata davvero una grande e bellissima scoperta, quella del Book Fair. E tornando alla storia della casa editrice, il primo o tra i primi autori che hai pubblicato, c'è qualcuno che ricordi con particolare... Ma tutti quanti, non c'è uno in particolare. Ogni libro ha fatto la sé storia. Perché in realtà io volevo chiederti proprio il primo, però poi a volte sono capita stati, sempre. No, i primi sono stati in quattro. Sono stati quattro romanzi subito che erano Mi sono innamorato di te, Il Necromane, Eating Flowers e Il fuoco della fenice. Che noi avevamo sempre partiti con quattro collane dedicate al fantasy, al sentimentale, alla narrativa generale, poi allo storico e al thriller. E quindi avevamo inaugurato le quattro collane con un titolo. Quindi c'è già un progetto iniziale, a volte si tende a esordire con un solo titolo e poi non si ha abbastanza progetti. Siamo partiti proprio con le idee abbastanza chiare e volevo proprio puntare su queste quattro collane che erano alla fine anche le collane che mi piacevano anche a me da lettore leggere. Sì. Quindi erano quelle su cui mi sentivo davvero maggiormente ferrato e su cui potevo vantare una maggior professionalità e quindi da lì abbiamo cominciato a lavorare. E in questi anni ho avuto il piacere di pubblicare tantissimi autori molto molto bravi che grandi case editrici ci hanno rubato, o autori che prima erano in grandi case editrici e sono passati a noi, e, tra cui italiani bravissimi, ma forse quello che è stato un orgoglio grandissimo è stato un autore che era il mio preferito, un americano fantastico che si chiama Jonathan Carroll, che ha venduto milioni di copie nel mondo e che prima era con Mondadori e Fazzi. L'ho corteggiato come neanche con una donna avrei fatto, fino a farlo venire nella nostra casa editrice e sapere che adesso il nostro autore è qualcosa davvero da pelle d'oca. Beh, caspita. E come funziona l'acquisizione di un autore americano comunque che era con una grande casa editrice? Probabilmente una piccola casa editrice ha più armi per un autore del genere, perché lo coccoli di più, lo fai sentire più parte di una squadra. Esatto, lui mi disse proprio questo, disse che per quanto appunto comunque con Mondadori o Fazzi avesse molte più armi rispetto a quelle che potevo offrire io, ovviamente noi non abbiamo ancora quelle, però si sentiva al centro davvero di un progetto, forse, cioè la cosa che noi pubblichiamo ancora ancora pochi libri l'anno, pochi titoli ma mirati, proprio perché vogliamo non solo mettere la qualità al centro, ma vogliamo che ogni libro in sé abbia sia curato a 360 gradi, ci sia un'attenzione su tutto quello, dalla grafica all'editing al prodotto libro in sé, perché deve essere io penso che un libro debba essere non solo bello da leggere ma anche da toccare, sfogliare, guardare, certo, l'oggetto, alla promozione. Quindi pochi libri ma curati e gli autori coccolati. Poi a maggior ragione nell'epoca degli ebook ciò che può vivere è anche qualcosa che sia anche un bell'oggetto. Cioè, se vendi solo il contenuto a quel punto lì allora fai l'ebook. Esatto, vendi l'oggetto libro. No, l'oggetto libro deve essere bello e poi io credo ancora molto nel valore del libro cartaceo. Io continuo a essere uno di quelli che va in libreria, ci starebbe ore e comprerebbe tutti i libri di una libreria. Poi noi siamo in una biblioteca fantastica, quella dell'Archimede, che è un valore assoluto, e io posso essere in questi posti davvero grandissime ore della mia giornata. Eh beh, certo. Il sogno, c'era anche un episodio di Ai confini della realtà, della mitica serie Twilight Zone, Tempo per leggere, che tutti noi vorremmo avere più tempo per leggere. Era un episodio con Burgess Meredith e aveva questo twist ending tipico di Ai confini della realtà, che il bibliotecario, rimasto chiuso nella biblioteca immensa al termine di una guerra nucleare, che dice: ah, fantastico, sono qua da solo con tutti i libri. E purtroppo era presbite, gli si rompevano gli occhiali e quindi non poteva più leggere niente. No, purtroppo Ai confini della realtà aveva questi deve twist ending. Un incubo. Esatto, terrificante, terrificante. E poi parliamo anche un po' di fantastico in generale. Volevo lanciare subito la prima canzone e qui ho fatto una playlist un po' più anni 80, perché diciamolo è la nostra infanzia tardi. In realtà noi ci siamo arrivati, li abbiamo presi per la coda gli anni 80, eravamo molto piccoli. Però certo cinema, certo cinema, certa musica l'abbiamo in maniera un po' subliminale. E questo è un pezzo di Glenn Frey, post Eagles, era il chitarrista degli Eagles, poi da solista, ha scritto questo pezzo qua che tutti noi associamo probabilmente a un film che si chiama Beverly Hills Cop 3. Filippo in regia lancia pure il pezzo, Glenn Frey, The Heat Is On. Siamo tornati in onda, nonostante i Gremlins, nonostante i dinosauri, nonostante Eddie Murphy, che è sempre nelle nostre radici dell'infanzia. Qui stiamo diventando un po' autoreferenziali, dopo la generazione in cui dava per scontato tutta una determinata serie di simboli cinematografici, noi abbiamo dei padrini tipo Arnold Schwarzenegger e cose del genere che non sono, fanno parte della cultura pop, forse non fanno parte della cultura in senso stretto, ma noi hanno sempre divertito, è un po' un legame forse infantile, molto preistorico. Tu col fantastico o col cinema c'è una qualche influenza, radice culturale a cui ti senti più vicino? Ma io sono stato un divoratore di film da quando ero ragazzino, film, fumetti, chi più ne ha, a casa sono un appassionato, lo ammetto, di Spider-Man e tutti i fumetti della Marvel, penso di avere tutti i fumetti usciti sull'Uomo Ragno in Italia, quindi ho sempre, come dicevo prima... Anche quelli editrice corno, eravamo troppo giovani? No, cioè è stata una passione ereditata dal papà, quindi okay. ho anche molte cose della corno. E quindi sì, sono cresciuto con questo, ma fantastico in generale. Io mi ricordo un film, anche che se non è prettamente fantastico, che mi ha segnato tanto, è stato la trilogia di Ritorno al Futuro, che ho adorato e che in qualche modo ha segnato i miei primi anni. Tra l'altro sei d'attualità, quindi visto che quest'anno è il 2015, è l'anno... Il 15 ottobre 2015. Esatto, no? Il 15 ottobre di quest'anno da qualche parte arriverà Marty McFly. Esatto, andiamo tutti a cercarlo. La cosa bella è che in realtà siamo molto, forse a parte le macchine volanti e lo skate, il volo pattino, siamo in realtà abbiamo un futuro più avanti di quello che loro prevedevano. Ma infatti è molto interessante fare un paragone con ciò che loro avevano immaginato 30 anni fa, perché su tante cose non abbiamo le macchine volanti, che è il futuro più vistoso. Esatto. Però in tante cose non credo che avessero immaginato internet. Esatto, non avevano immaginato internet, non avevano immaginato così tanto gli smartphone o il telefono addirittura mobile, quindi è interessante vedere dopo 30 anni quanto ci siamo evoluti. Bello. E per il resto, appunto, il fantastico mi ha influenzato sempre comunque, ma io sono un onnivoro, cioè dipende davvero, ogni giorno passo da leggere Milan Kundera a leggere Stephen King, dagli italianissimi, dalle cose più come dei thriller ai fantasy, quindi dipende da come mi sveglio quel giorno, da cosa ho voglia di vedere. Ultimamente sono un divoratore di serie TV, quindi da House of Cards alle Regole del Diritto Perfetto in in questi giorni, quindi mi piace, anche perché penso che sia per quanto riguarda il mio lavoro da editore che da scrittore, conoscere il più possibile possa darti tutta una serie di input che sono sempre molto essenziali. Non bisogna mai stare, bisogna sempre allargare il quanto più possibile le proprie conoscenze, i propri orizzonti e cercare di andare a trovare stimoli nei luoghi più disparati possibili. Certo, credo che le serie TV di per sé in questo momento sono la narrazione popolare per eccellenza, e poiché tra l'altro ci vengono dagli Stati Uniti, che sono ancora l'egemonia culturale, ma non necessariamente l'egemonia economica, l'equilibrio si sta spostando, quindi l'Occidente, le serie TV sono un po' la voce di un mondo che sta cambiando. E se sono diventate mainstream delle storie, mainstream o addirittura di genere, perché poi vengono celebrate a San Diego Comic Con delle serie che di genere non hanno più niente, penso a Breaking Bad. Sì, assolutamente. Breaking Bad che cos'ha dei canoni di genere? Assolutamente nulla, eppure ha conquistato una... Ma li paga la qualità, come sempre, in qualsiasi cosa. Sono cose fatte bene, sono cose belle, sono cose originali, sono cose a contenuto, oltretutto arrivi sempre. Quindi in realtà quando si parla di fallimenti, spesso c'è sempre dietro una ragione. Spesso vuol dire che non è stata fatta abbastanza bene. Io infatti ho sempre cercato di studiare in mille modi il perché una cosa fa fenomenologia. Cioè perché anche le cose che alla fine non mi piacciono, ma perché quella cosa ha venduto 10 milioni di copie, perché certo. Ha conquistato, qual è il segreto, qual è la formula sotto, in qualche modo c'è sempre un po' un segreto, un perché, ed è interessante capire che se poi alla fin fine, se le cose sono fatte in un certo modo, poi possono funzionare anche prodotti che all'inizio magari non ci avresti scommesso. È un approccio molto pragmatico, e comunque avendo da attingere a un'industria culturale molto florida come quella degli Stati Uniti, mettendoci in confronto con l'industria culturale italiana che ha qualche piccolo problema, o quantomeno deriviamo da quello che è stata un'industria culturale molto di nicchia degli anni 60 e 70, dopo il boom economico c'erano molto più ben delineati i confini di ciò che era cultura e ciò che non lo era. Poi pian piano le cose sono cambiate, io mi riconosco molto come te nell'abbattere queste barriere, perché alla fine sono buone storie e cattive storie, non buoni generi e cattivi generi. Assolutamente, la cultura spesso viene, a volte appunto io sono sempre stato contro quelli che hanno definito, cioè la cultura pop in realtà spesso è altrettanto importante come quella più elevata, quella dei circoli, quella dei, perché sono entrambe necessarie, entrambe essenziali alla costruzione del proprio bagaglio culturale, quindi sono molto molto importanti. Per questo il genere del fantastico è stato un genere su cui noi abbiamo puntato molto, perché comunque è un qualcosa che ci piace davvero veicolare. In questi giorni siamo orgogliosi perché sta uscendo i primi due volumi in libreria di una serie di cui siamo molto contenti, si chiama Monster Spark di Fabio Cicolani, che è un autore che ha già per se noi, qualcuno la webcam faccio che per noi ha già venduto tantissimo e ha conquistato migliaia di lettori con le sue magie di Omnia, che era per Young Adults. Questa volta invece di creare, di solito gli scrittori fantasy tendono poi a dire ok, ho scritto questo per Young Adults, dopo ne voglio scrivere uno per adulti. Lui ha fatto il passo inverso, ha detto voglio scrivere per i più piccoli, visto che poi lui tra l'altro insegna scrittura alle elementari, quindi fa laboratorio di scrittura creativa alle elementari, voglio usare i mostri come espediente per far capire loro quanto può essere bello leggere per i più piccoli, quindi educarli fin da piccoli che la lettura può essere una cosa divertente. Spesso noi cresciamo con il pensiero che la lettura è una cosa noiosa, perché spesso siamo costretti a leggere delle cose che ci vengono propinate, o forse non siamo ancora in grado di comprendere a quei livelli, e invece la lettura spesso non è proprio una cosa che ci può far vivere mille vite, mille esperienze, ci può dare mille pensieri, ci può proprio divertire, allietare le nostre ore, e farlo sì che sì, fin da bambini possono imparare a fare queste cose e a imparare a farlo, è una cosa di cui siamo molto contenti. E Monster Spark, che ricorda un po' la collana di Piccoli Brividi, anche se è completamente originale ed è ha tutta un'altra serie di ingredienti rispetto a quelli che c'erano nei Piccoli Brividi, è davvero, davvero una cosa di cui siamo non vediamo l'ora di far leggere a tutti quanti. Sbaglio alla fine ciò che sembrerebbe commercializzazione, cioè inserirsi in una catena ben precisa, in un target ben preciso di lettori, mettendo un logo, creando anche una serie, ciò che sembra la il marketing massimo alla fine è ciò che invece dà, mettendo dei grandi paletti, possibilità di creare qualcosa che emoziona. Ma certo, ma si può assolutamente... Poi il marketing è essenziale, non dobbiamo andare a nasconderci, cioè nel senso alla fine dobbiamo mangiarci, dobbiamo viverci, dobbiamo... è un lavoro, quindi in qualche modo noi case editrici, se vogliamo continuare a far crescere il mondo culturale di cui dovevamo parlare prima, le case editrici e tutti gli agenti, anche gli scrittori, i distributori, gli agenti letterali, dobbiamo guadagnarci, dobbiamo lavorarci, perché dobbiamo portare uno stipendio a casa. Ma nonostante questo, nonostante i bisogni, nonostante le formule di marketing, come dicevo prima, il prodotto, il contenuto alla fine è sempre il segreto per riuscire ad arrivare poi ai cuori dei lettori. Tanto è vero che la cosa di cui sono più orgoglioso, la pubblicità nostra più grande, poi comunque nei libri rimane sempre il passaparola, e vedere esempio che un lettore di anno in anno alla fiera del Salone del Libro tornino a trovarci perché hanno letto l'anno scorso dei libri, sono piaciuti tanto e vogliono tornare a trovare altro di nostro, è il complimento migliore, la cartina tornasole del fatto che le cose che facciamo funzionano e che piacciono. Benissimo, faccio fatica a farti le domande perché ti vedo ben preparato, no? Quindi hai l'inizio e la fine, io sono più che sgangherato nel parlare, anche se dovrei essere il DJ, invece ti vedo bello self-marketer, che poi diciamola bene, marketing è semplicemente messo sul mercato, e ho parlato non per niente di industria culturale, e la casa editrice è un'impresa, e questo snobismo della nostra cultura nel essere presenti sul mercato... Per favore, scrolliamocelo di dosso. Adesso qui faccio io una dichiarazione, ma penso che tu condivida, che rendiamoci conto che è tutto un sistema che sta in piedi se si fanno i conti bene a monte. Se non si fanno bene i conti a monte, non sta in piedi. Assolutamente. E tanta cultura popolare nostra, tanta cultura pop, dalle riviste pulp, di cui è già capitato di parlare qui con Fabrizio Borgio, Robert Howard, Howard Philip Lovecraft, oppure i registi degli anni 60, 70, post New Hollywood, cioè Spielberg e Lucas, sono narratori a tutto tondo per l'umanità, che però emergono da un ambiente molto commerciale, un ambiente commerciale in cui l'arte coincide con il business. In certe fasi dell'umanità questo succede, dicono che è successo con i Beatles, è successo con Spielberg, già probabilmente in questa epoca in cui viviamo un po' meno vince il dipartimento di marketing su quello editoriale in tante occasioni, ed è in queste situazioni che in realtà come la corte editore devono entrare a essere un passo avanti anche sulla parte, essere agguerriti sul fronte artistico ma anche agguerriti sul fronte marketing, ma anche su quello artistico. Assolutamente, assolutamente. Per noi è... Se noi vendessimo solamente, soprattutto per i libri, più che qualsiasi altra cosa, se noi vendiamo un prodotto dicendo la cosa più bella del mondo, siamo bravissimi a farlo, ma poi quando la gente lo legge la terza riga trova degli strafalcioni o si annoia, io reputo sempre che le primissime righe, lo dico sempre a tutti i miei scrittori, siano la cosa più importante. I libri devono picchiare dalla prima riga, neanche dalla prima parola. Se no, come dice Pennack, esiste il diritto di non leggere. Esatto, quindi verremo subito scoperti, quindi anche se tu vendi fuffa ti scoprono, esatto. Non c'è, nel nostro campo non c'è possibilità di mentire, e quindi l'unica cosa che l'unico modo che abbiamo di poter continuare a lavorare, di fare il nostro lavoro, è un patto di sincerità con il lettore. Sappi che da noi troverai sempre qualcosa che poi potrà piacere o non piacere, de gustibus, insomma, ci sono. Però noi ci abbiamo messo tutta la nostra passione, energia, professionalità, e potrai trovare delle cose che comunque valgano la pena. Certo, parliamo ancora del meccanismo editoriale, anche della selezione, magari dopo un'altra canzone, che speriamo che questa volta i Gremlins non ci assistano, oppure i Gremlins sono nostri amici, quindi parlavamo di sistemi culturali che a volte non funzionano, di decadenza, che ormai sono luoghi comuni fin troppo diffusi, ma gli extreme negli anni, credo gli anni 90, sia Pornografiti, avevano fatto un pezzo che si intitola Composto, scritto e suonato, invece che fatto, l'italiano è una cosa seria, Composto, scritto e suonato, un pezzo che si chiamava Decadence Dance, e fa più o meno così. Bentornati con Sono Solo Nuvolette, io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter. Sono imbranato dal punto di vista dei social, ma un social network manager che si chiama Di Pietro, è il suo nick, che in questo momento tra l'altro è a Barcellona, perché questi sono i miracoli della tecnologia. E grazie a Di Pietro, grazie a Filippo in regia, grazie a Gianni Lacorte che oggi è passato a trovarci. Grazie a te, Fulvio. E abbiamo occasione di chiacchierare un po' di editoria, di fantastico, di... Stavamo dicendo fuori onda, ma è un discorso interessante a cui riallacciarsi, che la Corte Editore fa le fiere di fumetto. Nel senso che è stato Luca Comics e adesso anche a Cartoomics, mi pare. Esatto, siamo stati a Luca. Luca Comics è qualcosa di fantastico, ha un'esperienza più che una fiera, ha un'energia completamente diversa. E la cosa bella è che... è probabilmente la più importante fiera con 400.000 persone. Sì, 400.000 persone. Quest'anno sono andati a 300.000, sì. Come visitatori penso che il Salone del Libro in Italia ne faccia ancora qualcuno in più, sì. Però sono due cose completamente diverse, quindi esatto. Se mi chiedessi quale preferisce, come dire chi preferisci tra mamma e papà. Esatto. Insomma, domande che non bisogna fare. Non bisognerebbe mai fare. Luca Comics è un'esperienza fantastica e in quei giorni è davvero non è un attimo di sosta, cioè sono perso in tantissime persone con cui parlare, chiacchierare, a cui far conoscere i tuoi libri. E la cosa bella è che hanno cominciato, dopo un tot di anni, a capire che oltre ai fumetti, games, il comics, c'è i film, c'era anche il mondo del libro, quindi cominciano davvero a venirti a cercare l'editoria fantastica, oltre che è stata una mossa intelligente, perché comunque anche noi tra virgolette facciamo parte appunto del mondo del fantastico. Però il potenziale lettore vostro non è così lontano dal lettore di fumetti. Sì, no, ma lo stesso target, se parliamo di target in termini tecnici, in un altro contesto sarebbe tutto preso da noi tra virgolette, lì noi spariamo e diventiamo forse le ultime. Mi ricordo il primo anno che siamo arrivati lì, avevamo accanto a noi come stand il castello di Harry Potter, che stavano promuovendo il DVD dell'ultimo film che era stato fatto, e ti giuro sparivamo un pochettino. Da lì abbiamo capito che bisogna investire anche sulla comunicazione a livello di stand e anche lì. È ovvio, è davvero una lotta alle Luca Comics, perché devi far conoscere i tuoi prodotti, che non hanno, diciamocelo sinceramente, lo stesso appeal di quello che può avere un fumetto, un videogames, certo. Almeno in quel contesto, o il DVD dell'ultimo The Avengers. Però è bello, perché quando esci di lì hai un'adrenalina davvero fortissima, sono sempre andati molto, è andata sempre crescendo, ed è un'esperienza che vogliamo continuare a fare ogni anno, perché è molto importante. Nelle altre fiere, a Cartoomix siamo stati adesso, anche lì è stata molto molto grande, forse sta cominciando adesso hanno cominciato adesso a inserire il mondo editoriale, quindi erano un po' più sorpresi di vedere i visitatori, di vedere il mondo libro all'interno della fiera. Però sono tutti posti in cui comunque l'editoria del fantastico può veicolare le proprie opere. Sì, Cartoomix si sta trasformando un po' in direzione della cultura pop. Alla fine c'erano le fiere del fumetto, che in realtà nascono dai collezionisti, nascono addirittura da un target che oggi quasi non si riconosce più nella Luca Comics. Infatti Luca Comics stessa si sta sdoppiando e probabilmente farà un'edizione primaverile un po' più rivolta ai collezionisti, ai lettori Bonelli, ai lettori del, certo, fumetto classico italiano. Invece c'è questo altro lato delle fiere del fumetto, che stanno diventando fiere di cultura pop, che poi di per sé la scia è quella della San Diego Comic Con, della New York Comic Con, che qualcuno chiama oramai Age Con, perché a San Diego Comic Con presentano da Lost a Transformers alla nuova serie di Spider-Man, perché è tutto allo stesso target di Age Con, cioè dei 15-35. Sì, che poi in realtà c'è anche di che più, poi è una banalità. Nel senso, vedi davvero dal quindicenne al sessantenne che ha ancora voglia di sognare o di divertirsi o di vedere di prendere i propri ricordi quando era ragazzo e continuare a... quindi in realtà non ci sono. La cosa bella del mondo del fantastico è che non ha età. Poi sì, effettivamente il gruppo forte è quello dai 14-15 ai 40, sì. Però... vabbè, quella è la semplificazione demografica degli uffici di marketing che dicevamo, esatto, prima. Vabbè, si ragiona sull'età, sui numeri, però alla fine ti rendi conto che è un patrimonio comune. Sì. Ma è bello. Poi noi appunto abbiamo davvero fantasy di un po' di tutti i generi. Sono contento perché appunto. E poi ogni Lucca Comics noi lanciamo qualche anteprima, qualche autore che sta per uscire. Siamo contenti perché appunto, a parte il Fabio Cicolani che ho già citato con Monster Spark e Magia di Omni, in questi anni abbiamo lanciato un autore che sta per uscire il prossimo mese con un nuovo libro che è Antonio Lanzetta, che ha con Warrior l'anno scorso. Lui ha scritto anche perché poi il fantastico, la cosa bella è che ha tanti sottogeneri, tante sfaccettature, tante sfumature, va dal fantasy più classico medievale a quello con sfumature scifaghi all'urban, e quindi noi cerchiamo un po' di prendere tutto questo arcobaleno di sfumature e cercarlo di fare nostro. Quindi Antonio Lanzetta, da Aurora Corsini con la sua saga invece più paranormal romance, quella di Bacio Immortale, Arsenal di Gianandrea Siccardi, che invece è draghi, orchi, elfi e battaglie, insomma. Okay. Siamo andati davvero a prendere ogni faccettatura del fantasy, cercare di pubblicare il fantasy. Tra l'altro noi l'abbiamo sempre un po' curato, la corte editore ha curato fin da ormai dal 2010 una rivista digitale che si chiama Fantasy Planet, che dà informazioni su tutto quello che è il mondo fantastico e non solo sulla corte editore, proprio perché ci piace comunicarlo, ci piace, come dicevamo prima, ci piace far sì che sia uno dei nostri generi di punta, nonostante poi ci dicano, ho letto sull'anno scorso che i lettori di fantastico sono molto diminuiti, che c'è crisi nel settore, tutto quanto, ma ritorno al discorso che sembra sempre solo una questione di bellezza del prodotto, di prodotto che vale o meno. Ma David Farland, che è uno scrittore americano che si tiene in contatto con i lettori tramite neanche un blog, ma una newsletter, Daily Kick in the Pants, nei pantaloni, lui l'ha un po' censurata così. Lui dice che il fantastico, tante volte in ambito commerciale ci sono tutta una serie di sottogeneri del fantastico, poi arriva un Twilight, un Harry Potter che fa l'ammazza 7, amplia quel genere e porta a quel sottogenere tutta una serie di altri lettori. Il problema dal di fuori, che a un certo punto sembra che il fantasy improvvisamente sia solo Tolkien o solo Harry Potter o solo, quando in realtà è un universo vastissimo, però dal di dentro un successo di un'opera, di un titolo, rilancia un intero sottogenere e permette, porta nuovi lettori. Quindi in realtà ecco, però proprio su questo mi permetto di dare un consiglio agli scrittori di fare attenzione. Ci arrivano te conta che ormai a noi arrivano qualcosa come 2500-3000 manoscritti l'anno. Ok, questo era il numero che non avevo il coraggio di chiederti, perché ma arrivano tanti cloni di, cioè nel senso, l'autore che vuole scrivere di fantastico, consiglio davvero di trovare una sua cifra stilistica, un suo universo, una sua originalità. E vedo che arrivano tanto sul filo, è un po' la copia di Harry Potter, è un po' Twilight, è un po' come il Trono di Spade, è un po', invece no, ognuno deve riuscire a essere se stesso, cioè deve riuscire a trovare, cioè se riesce a essere originale, se riesce a trovare una chiave originale, anche per carità, usando le figure classiche del fantasy, allora funzioni, allora riuscire un giorno ad arrivare non solo alla pubblicazione, che per carità spesso è visto dagli scrittori come l'aspirazione massima, come il punto d'arrivo, quando in realtà l'aspirazione massima è farsi apprezzare dai lettori, e quando un lettore ti legge ti apprezza, quello a cui dovrebbero puntare gli scrittori. Lo potranno fare solo se c'è davvero un'originalità di fondo e un concetto di base che sia al di là della mera ho sentito quella cosa, mi piace, la posso fare più o meno simile. No, devi trovare un tuo... Penso che sia qualcosa che si costruisce. Potrei scommettere sull'età media degli autori dei manoscritti che ti arrivano, che penso che siano tutti molto giovani. Ma no, mi arriva davvero di tutto. Mi arriva dal trentenne al sessantenne. Anzi, l'altra volta mi è arrivato un manoscritto una signora di 82 anni che mi ha fatto molta molta tenerezza. Però voleva dire che non è... La cosa bella forse è che i sogni non hanno età, no? Quindi fino a ancora 82 in quel anni tempo, sì. Allora si parla di giovane età nell'approccio del genere. Il problema è che il genere, abbiamo tutti i generi della letteratura, hanno quantomeno 50 anni di storia, in genere di più, sulle spalle, e quindi non puoi arrivare conoscendo solo l'ultimo miglio. Certo. I padri fondatori, oramai chi segue questa trasmissione comincia a sentire nomi ricorrenti come Richard Matheson, che tra l'altro sceneggiatore di titoli come Io sono leggenda, poi divenuto film ben tre volte, di cui la prima volta nel 1960 qui in Italia per la regia di Ubaldo Ragone con Vincent Price nell'Euro. E l'ultimo uomo della Terra, tanto per dire, ha influenzato un certo film che si chiama L'alba dei morti, La notte dei morti viventi del 68 di George Romero, cioè ha anticipato addirittura La mania degli zombie, che oggi è tornata esplosiva. Sì, dopo quasi 20 anni in cui sembrava, era stata quasi relegata ai film di serie B, esatto, B-movie e tutto quanto. Tu che tieni le antenne dritte per questo, vedi in genere un'opera che la rilancia una mania e una sensibilità? Ti sei mai posto la domanda su cos'è che causa il ritorno di una moda agli zombie, oppure il i fantasy, vampiri, oppure piuttosto che i vampiri? No, sì, c'è sempre un qualcosa che la rilancia e che allo stesso tempo la brucia in fretta. Cioè dipende poi, perché a volte il fenomeno che il prodotto che rilancia quella moda in realtà vampirizza un po' lo specifico settore, perché poi diventa il genere, sì, sì, sì. E quindi tutti quanti poi lo confrontano e bisogna tu poi nello aspettare... scaffale horror trovi solo più le imitazioni di Twilight, che poi magari Twilight non è neanche che non horror. È neanche horror, che non c'entrava assolutamente nulla, esatto. Forse avrei messo più lo scaffale sentimentale, esatto. E quindi c'è poi dopo qualche anno invece, magari passa un po' di tempo, se non, il lettore non si è stancato, allora si riesce a ritornare a parlare di quel concetto in una maniera più ampia, di quel particolare genere rivisto, eccetera. Però è bello vedere come ogni 2-3 anni c'è un genere che viene rilanciato da qualche fenomeno. Quindi ho visto Harry Potter, poi è arrivato Twilight, poi è arrivato Il Trono di Spade, è arrivato insomma altri mille, però insomma ogni volta c'è quel Walking Dead, prima parlavamo degli zombie, però adesso se parli di zombie tu pensi a Walking Dead, è difficile che altro sia poi all'altezza, anche se poi il mondo editoriale cerca di aggrapparsi a quel fenomeno, esatto. E di provare a proporre cose che possano funzionare, che possano magari essere più belle, ma solitamente poi vengono sempre appunto trascinate, paragonate e trascinate o affossate dal modello punto di riferimento. Sì. Non hai pensato di pubblicare qualcosa di zombie tu? Sì, ma non ho trovato ancora niente di valido su quel genere. È un archetipo molto difficile, probabilmente già a fine corsa, quei due o tre anni, temo, di vita questi. Poi in realtà possono ricomparire dopo molti anni, però di per sé penso che la parabola degli zombie sia già quasi esaurita. Sì, mi credo 2-3 anni fa trovavi ormai solo in libreria solo cose di dopo i vampiri, cioè forse ci sono stati gli angeli e sono spariti subito, poi ci sono va davvero anno, in un anno trovi solo quello, poi solo quell'altro. Penso che invece l'eterogeneità debba essere il punto di forza di qualsiasi offerta commerciale. Ma in quello c'è un'autorialità, c'è una costruzione di un percorso che parte, secondo me un grande pungolo deve farlo l'editore o l'editor, è anche un seguire gli autori. Hai visto tu gli autori crescere, immagino, nel corso certo, degli anni? Certo, assolutamente, e ne sono, come dicevo prima, ne sono, io faccio davvero un grosso lavoro con ciascuno di loro, anzi loro quando c'è da scrivere mi odiano e mi amano allo stesso tempo, perché li pungolo, a volte ho fatto riscrivere loro parti intere dei libri, perché se scelgo un autore è perché so che vale, perché okay. So che ha delle potenzialità, e io da bravo allenatore voglio che diano il massimo in campo, voglio che arrivino a tirare fuori il loro meglio, e sono contento perché arriviamo anche a volte a momenti di scontro su alcune cose, però alla fine arriviamo sempre a trovare una quadra. Sono contento perché vengono stimolati, perché bisogna lavorare in maniera dura sui propri libri, e mi piace perché ho scelto tutte persone che hanno saputo mettersi in gioco. Non è facile, un autore spesso pensa di essere il dio sceso in terra e che quello che ha scritto è l'opera omnia che verrà ricordata come la nuova Bibbia. No, te ne parlo da scrittore, io sono uno che da quando scrivo io si confronta spesso con le altre persone, perché so che che è impossibile avere la presunzione di aver scritto, ma so quanto l'ego da scrittore possa essere fuorviante, e quindi il fatto che i miei autori tutti quanti abbiano saputo saputo mettersi in gioco, è una cosa che ogni volta applaudo loro, perché è da veri professionisti. Ok, e torniamo ancora a parlare del rapporto con gli autori, perché mi piace molto questa metafora dell'allenatore, non ci avevo mai pensato. Comunque una scuderia di autori ha bisogno di un allenatore, che in questo caso è l'editore. E mettiamo un'altra canzone, la terza della playlist di oggi, che siamo un po' sugli anni 80-90, siamo molto sul... Easy Listening potrebbe essere una vaccata, quindi parliamo semplicemente di grandi pezzi, grandi ritornelli, grandi band come i Toto e Africa. Ed erano i Toto con Africa, forse una delle più belle canzoni rock di tutti i tempi. Il tempo corre e quasi sempre arriviamo corti, un po' come certe storie a fumetti che devi chiudere nelle ultime tavole perché purtroppo hai ancora tantissimo da dire. Ci sarebbe ancora tantissimo da dire, magari se ricapita Gianni ti invito una seconda volta. Con piacere. Magari con un tuo autore, potresti portare una volta un tuo autore, così facciamo anche una chiacchierata a tre. Perché no? Abbiamo avuto qui Gianni Lacorte, editore e scrittore. C'è un come dialoga l'editore in te con lo scrittore in te? Riesci ancora a scrivere senza porti dei paletti? Insomma, me la canto e me la suono. No, la cosa, appunto, da quando ho aperto poi la mia casa editrice ho deciso anche di pubblicare i miei romanzi, che può essere vista come cosa positiva, come cosa negativa. Alcuni potevano dire, vabbè, questo se la canta, se la suona da solo, grazie, facile. In realtà sono contento perché, appunto, fin dal primo romanzo, appunto, la critica, il pubblico, il fatto che avessi vinto un premio letterario, hanno poi inquadrato la cosa come il fatto che facesse davvero parte di un progetto editoriale serio. Credo che comunque tu abbia anticipato gli indie publisher. Non so se oramai tutti gli autori che si pubblicano su Amazon non si chiamano più self-published, ma indie published, indie sì. Publisher, indie authors. Perché quindi... oramai Amazon dà questa opportunità di caricare automaticamente, esatto, il tuo file, e quindi non hai più bisogno dell'editore. È una cosa positiva e negativa? È negativa. L'editore in realtà ti mette un... tra virgolette ti dà il suo marchio di garanzia. Cioè tu di un editore cominci a fidare, dopo che lo conosci puoi fidarti, sai, quando c'è un qualcosa con un marchio, sai che comunque ha una qualità riferita a quel modello a cui si riferisce. Un autore che si pubblica da solo a volte può essere un fenomeno, a volte può essere un rischio, una sorpresa per un lettore che lo compra. Io non condanno la cosa assolutamente, è semplicemente sono modi diversi di farla. Per te è stato esserti autopubblicato, hai avuto qualcosa che poi hai imparato in corso d'opera, qualcosa che avresti voluto fare, cioè pubblicato con la tua casa editrice? Sì, no, vabbè, comunque sono stati libri che ho avuto più difficoltà a promuovere, perché comunque in realtà poi mi sono innamorato di te, forse quello che nella casa editrice ha venduto più copie, siamo arrivati ormai all'ottava ristampa, quasi oltre le 5.000 copie, quindi è andato molto molto bene. Direi che sono numeri che per una realtà editoriale diventa difficile. Infatti ormai quando esce un mio libro comunque affitto un ufficio stampa esterno eccetera eccetera, assumo un ufficio stampa esterno, proprio perché se no diventava tristerrimo il fatto di pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Lacorte, volevo mandarle il comunicato stampa o fare una presentazione del libro di Gianni Lacorte promosso dalla Corte Editore. Non funzionava, perché poi le persone quando leggono lo apprezzano e vedono, però come dicevamo all'inizio c'è tutta la parte di commerciale, di marketing, che è assolutamente importante. Filtro, esatto. Qualcuno che abbia il giusto distacco per trattare il tuo libro come un prodotto. Esatto, e quindi è una cosa che per adesso mi ha dato tante soddisfazioni e ne sono contento. E la cosa bella è che ancora dopo 2 anni all'uscita dell'ultimo libro mi continuano ad arrivare tantissime mail di persone che lo leggono, ed è ogni volta che sai che qualcuno ha letto un tuo libro è un'emozione davvero grande per ogni scrittore che ti voglia a continuare a scrivere quelli nuovi. Tra l'altro adesso sto ultimando l'ultimo, quindi nei prossimi mesi uscirà anche il nuovo libro e non vedo l'ora davvero di farlo leggere. Ok, ok. Credo che dobbiamo chiudere, purtroppo è un po' malincuore. Ti chiedo di dare un po' di coordinate per trovare la Corte Editore sulla rete. La Corte Editore, rete. Mi raccomando, lo trovate innanzitutto in libreria, mi raccomando, poi in rete sulle nostre pagine Facebook, Twitter, su www.lacorteeditore.it. Vi aspetto tutti quanti tra meno di un mese e mezzo al Salone del Libro di Torino. Per noi in realtà è già domani, perché da come stiamo correndo per prepararlo, per noi è già domani. E grazie ancora Fulvio, grazie ad Archimede per questa grande opportunità, questa ospitata di oggi. Grazie Gianni, è stata un po' una quadratura del cerchio dopo vabbè, questo, andiamo nell'autoreferenziale, dopo esserci conosciuti alle università, vabbè, uno cerca per tutta la trasmissione di fare la persona seria e poi cade su queste cose qua, vabbè, pazienza. Prossima volta invitiamo anche Elena Bosca, che era anche nostra compagna di università, ed è una bravissima. Sweet Love, che l'anno scorso ha spopolato, esatto, con il suo romanzo, che oltre ad essere una bravissima autrice, una bravissima pasticcera di Arwendi, esatto, a Torino. Lei è stata una bellissima sorpresa, ha scritto un bellissimo romanzo che ha funzionato tanto, ovviamente non nel genere fantastico, ma in quello più sentito. Il ciclite, che nel nostro campo è andato benissimo con Voglio fare la wedding planner, Sweet Love, esatto, e tutto il resto. E lei te la porto, perché è davvero simpaticissima, la conosci. Sì, è un personaggio. Ci ho fatto liceo insieme. Dal sud, veniamo dal sud astigiano, queste terre lontane e sperdute. Langhe, l'Astigianistan, come lo chiama un mio amico autore. Grazie a Gianni davvero di essere stato qua per questa bella chiacchierata. Sono solo nuvolette, vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 15, sempre su www.radioarchimede.it, oppure in streaming, in podcast, come preferite, tramite la pagina Facebook Sono solo nuvolette. Cliccate mi piace. Piace anche a noi se cliccate mi piace. Cliccate mi piace anche sulla pagina della Corte Editore, così piace anche alla Corte Editore. Come sempre, distribuite like a destra manca, che non costano niente ma danno soddisfazione. In qualche modo è un modo per collegarsi direttamente con tutte le nostre attività, con quello che facciamo, e permettere di comunicare tutta una serie di attività creative, di produzione editoriale, di iniziative che, arrivando direttamente ai lettori, scavalcano un po' di intermediari che a volte, per ragioni anche industriali, magari fermano un po' il segnale. Invece, come dicevano i Brown Coats di Serenity di Joss Whedon, non si può fermare il segnale. Alla settimana prossima, martedì alle 15, sono solo nuvolette. Grazie ancora Gianni. Grazie a te.